Allora, siamo qui per parlare con il professor Luigi Campanella, professore di chimica ambientale dell'Università La Sapienza di Roma e membro del Comitato Scientifico di Equivita, una posizione autorevole contro la sperimentazione animale e sul ribadire, insomma, per affermare ancora una volta non solo la crudeltà, ma anche la totale inutilità della cosiddetta vivisezione. Allora, la prima domanda che le volevo fare è, volevo sapere a livello didattico come viene affrontato il discorso della vivisezione all'interno proprio dell'università qua La Sapienza. No, sostanzialmente l'interesse didattico di questo tipo di sciagurata attività non è storico, ma è soprattutto recente. Perché il regolamento europeo REACH, che attualmente regola i rapporti fra la produzione di qualunque materiale e la sicurezza dell'ambiente dei cittadini, prevede una sperimentazione su quanto viene prodotto che ancora si appoggia alla sperimentazione animale. Quindi, di fatto, il regolamento REACH, essendo un regolamento europeo molto importante, è entrato in moltissime attività didattiche, sia a livello di corsi di insegnamento, sia a livello di master e dottorati, e quindi l'argomento è diventato di attualità anche didattica, ma è relativamente recente. Probabilmente a livello delle facoltà, dei corsi di laurea biologici, qualcosa viene insegnata. Io, essendo un chimico, non mi risulta che ci sia stato in passato, prima di questo REACH, ci sia stata un'attenzione didattica sulla sperimentazione animale. E volevo un po' che lei ci spiegasse quali sono appunto le sue posizioni rispetto alla vivisezione, che cosa ne pensa, qual è l'utilità o meno appunto di questa pratica. Io sono contrario alla sperimentazione animale, anche se penso che su alcune particolari situazioni possa ancora essere accettata, e quindi sono un sostenitore sostanzialmente della direttiva europea delle 3 R, riduzione, sostituzione e riconsiderazione della sperimentazione animale, che è una raccomandazione che è stata rivolta a tutta la comunità scientifica, proprio in funzione del fatto che la sperimentazione animale oggi è probabilmente indispensabile in casi veramente rari, forse legati più che altro alla verifica di farmaci e di malattie collegate al sistema neurovegetativo e nervoso più che a qualunque altro tipo di attività. Quindi penso che per tutte le altre teste la sperimentazione animale possa oggi essere sostituita da sperimentazioni in vitro, tenuto conto del fatto che la conoscenza del rapporto fra gli organismi, l'organismo umano e le varie sostanze è stata talmente studiata che si capisce e si sa quali sono gli organi bersaglio, e allora tanto vale verificare la possibile tossicità o il possibile danno con una sperimentazione in vitro che utilizzi le cellule di quel tessuto, non c'è bisogno di utilizzare gli animali interi. Quindi, da un punto di vista, diciamo, di informazione scientifica, credo che oggi la scienza ha fatto parecchi passi in avanti e ci consenta, con delle sperimentazioni in vitro, di ottenere le stesse informazioni che si ottenevano da sperimentazioni in vivo. L'altro punto che ritengo fondamentale è che ci sono dei dubbi sulla trasferibilità della sperimentazione animale all'uomo. Il primo dubbio concerne il fatto che l'animale non è l'uomo come organismo, e quindi ovviamente è vero che alcune similitudini di comportamento esistono, ma è anche vero che gli organismi sono diversi e che quindi quelli che possono essere i risultati su un organismo poi non possono essere trasferiti ad un altro. La seconda osservazione che faccio è che gli animali vengono sperimentati, tra virgolette, in condizioni di cattività, che non sono condizioni, e molte volte di cattività estrema, che non sono condizioni ovviamente naturali. Quindi la risposta dell'organismo a queste condizioni può non essere quella reale. Se se noi ci mettessero in una cantina di 1 metro per 1 metro, siamo sicuri che avremmo le stesse reazioni che abbiamo quando facciamo la nostra vita di tutti i giorni? Io non credo. Quindi ci sono due aspetti che lasciano dubbi sui risultati della sperimentazione animale: la trasferibilità dall'animale all'uomo, che è un punto interrogativo trattandosi di organismi diversi, e il fatto che la sperimentazione sugli animali viene condotta in condizioni che non sono quelle naturali e quindi ovviamente con probabilità di alterazioni anche delle risposte. Io a questo riguardo le volevo chiedere una cosa, allora perché si continua a praticare la vivisezione? Un'obiezione che viene fatta è che, siccome la ricerca non è, diciamo così, neutra, ma è finalizzata a dimostrare qualcosa, il modello animale formalmente, consentendo una vastità di manipolazione, per esempio la scelta dell'animale finalizzata a dimostrare qualcosa, permette al ricercatore così di ottenere quello che vuole, ma chiaramente questa non è scienza, non è vera ricerca. Lei condivide questa spiegazione, diciamo, antivivisezionista su perché si continua a praticare vivisezione? Intanto tra sperimentazione animale e vivisezione c'è un minimo di differenza, e quindi quando parliamo di sperimentazione animale, la sperimentazione non è necessariamente conduce alla vivisezione, quindi per la vivisezione io condivido quello che è stato appena detto. Per quello che riguarda invece la sperimentazione animale in senso più generale, io credo che il persistere di mantenerla derivi dal fatto che i dati del passato di tutte le sostanze con le quali il nostro organismo viene a contatto e rispetto alle quali quindi noi dobbiamo proteggere l'organismo vivente rispetto a possibili danni, tutti i dati sono in termini di dati che derivano dalla sperimentazione animale, perché in passato non si avevano le conoscenze di cui vi ho detto prima, e quindi la sperimentazione in vitro non era in grado di sostituire la sperimentazione in vivo, e quindi si sono raccolti dati sulle sostanze basati sull'LD50, sull'LC50, quindi tutti da sperimentazione animale. Oggi, se si vuole andare verso prodotti più sicuri, bisogna confrontarli con quelli vecchi, giusto? Allora, di quelli vecchi, purtroppo, i dati che si hanno sono in termini di sperimentazione animale. Quindi il mantenere la sperimentazione animale è stato un po' giustificato dal fatto che bisognava confrontare i dati del passato con i dati del presente. Quindi, mentre per la vivisezione vale quello che hai detto, per la sperimentazione animale in termini più generali io credo che venga mantenuta tuttora, e in fondo anche l'Unione Europea con la raccomandazione delle 3R però l'ha mantenuta, perché ovviamente ci sono dei prodotti che oggi si vuole sostituire perché sono ritenuti dannosi per l'organismo, pericolosi eccetera, si vuole sostituire con prodotti che hanno le stesse capacità ma non sono dannosi. Allora bisogna fare un confronto tra il vecchio e il nuovo. Purtroppo i dati del vecchio, se uno li va a cercare sui cataloghi e sugli handbook, trova valori in termini di dati che derivano dalla sperimentazione animale. Quindi la necessità del confronto obbliga un po' a mantenere in piedi questo. È chiaro che bisognerebbe fare uno sforzo invece per andare verso metodi che possono riconsiderare anche le sostanze antiche, quindi le sostanze usate in precedenza. E se non si fa questo passo ce lo porteremo appresso sempre, perché i dati del passato, se noi non li trasformiamo in misure realizzate senza sperimentazione animale, saremo sempre legati a un passato che è stato sbagliato, ma che derivava dal fatto che la scienza non aveva fatto i passi in avanti che ha fatto di recente. Io volevo un po' chiederle, insomma, lei appunto faceva una differenza rispetto a alcune ricerche che ritiene non abbiano più bisogno di sperimentazione animale e altre invece che secondo lei devono continuare ad averla. Io personalmente ho un po' di difficoltà ad accettare questa cosa, nel senso che io non vedo chiaramente, cioè, una differenza sulla sofferenza animale. E poi appunto mi viene un po' da chiedere anche, appunto, lei ritiene che determinate ricerche siano appunto sia ancora d'obbligo utilizzare animali, probabilmente altri ricercatori, altri scienziati potrebbero avere altre ricerche che ritengono appunto che necessitano di sperimentazione. Allora come si esce un po' da questa situazione? Perché si sa quali sono gli organismi, quali sono gli organi dell'organismo umano che, per i quali è possibile già individuare la risposta e quindi studiarla attraverso analisi in vitro. Quindi direi che per tutto l'organismo umano si può sostituire alla sperimentazione animale l'analisi in vitro. Mi restano dei dubbi, io non sono un esperto del settore, mi restano dei dubbi per alcune funzioni dell'organismo collegate al sistema nervoso, che per la quale la sperimentazione in vitro non è riuscita ancora ad arrivare a conclusioni che consentano di sperimentare sulla base di un'interazione fra cellula e sostanza. Allora, in quei casi, se noi vogliamo migliorare la condizione attuale di molti anziani, di molte persone che oggi soffrono di malattie come il Parkinson, l'Alzheimer, che sono in crescita continua, io posso anche capire che ci sia l'esigenza di sperimentare dei farmaci nuovi. Allora, se io non sono in grado di sperimentare questi farmaci nuovi in reazioni in vitro tra cellula e farmaco, non è che ci siano molte tante alternative, quindi non è vero che io sostengo che debbano mantenersi in vita, si debba mantenere in vita laddove non c'è la possibilità di sostituire all'analisi in vivo l'analisi in vitro, in quanto la ricerca riferita all'analisi in vitro non ha conseguito i risultati che consentono di trasferire la reazione dal vivo al vitro. Questo è il problema. E ovviamente è chiaro che gli animali, io sono un amante degli animali, potete vederlo dalle fotografie che stanno esposte qui in questo mio studio, ce ne sono tanti, ma è chiaro che eticamente l'uomo rappresenta un organismo superiore, quindi come tale, se si può salvare la vita di bambini, di vecchi, di persone che soffrono, io credo che ci sia il dovere di farlo, cercando di ridurre al massimo quella che è una sperimentazione che produce sofferenze e danni per altri organismi che vanno rispettati lo stesso. Quindi laddove c'è la possibilità della sostituzione, credo che sia colpevole non considerarla, solo per avere risultati definiti più certi, e più certi non sono per i motivi che vi ho detto. Laddove questo, e la ricerca va avanti, quindi io sono sicuro che si arriverà alla sostituzione della sperimentazione animale. Le 3R dell'Unione Europea ci dicono questo: riduzione, riconsiderazione, che vuol dire in termini diversi l'animale deve essere trattato, sostituzione. Quindi il terzo messaggio dell'Unione Europea è che si può arrivare alla sostituzione. Questo è il processo. Ecco, a questo proposito, al di là delle dichiarazioni di intenti anche degli organi politici preposti, vi dicendo, lei ritiene che ci siano interessi economici molto forti che ostacolino la ricerca senza animali, e parlo per esempio degli interessi degli allevatori, gli interessi dei veterinari, gli interessi degli stessi ricercatori in molti casi che dicevamo prima? Probabilmente ci sono questi interessi, purtroppo gli interessi economici condizionano non soltanto purtroppo questa parte così delicata delle attività umane, cioè la sperimentazione animale, ma condizionano anche altre attività in cui purtroppo si antepone l'interesse economico all'interesse civile, sociale, alla protezione di certi valori, quale la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tutto questo purtroppo c'è sempre un risvolto economico, e quindi che è da condannare nei modi più assoluti e nei termini più assoluti. Quindi la resistenza sicuramente c'ha anche questo fondo, però io cerco di interpretarla un po' più ottimisticamente, forse sbagliando, pensando che la resistenza deriva dal fatto che lo studioso è portato ovviamente a confrontare il passato col presente, perché la ricerca va avanti se rispetto al passato si fanno dei salti di qualità, e allora in questo caso questa condizione limitativa che assegna solo alle sperimentazioni animali i dati del passato può influenzare negativamente anche la scelta di un progresso rispetto a quello che dite. Io volevo adesso, insomma, entrare un po' più nello specifico, nel senso che noi siamo all'Università di Roma, alla Sapienza, e quindi mi piacerebbe, insomma, capire se lei ci può dare, diciamo, un panorama, diciamo, su quello che avviene all'interno dell'università, nel senso se lei ha conoscenza, appunto, di quanti laboratori esistono, che tipo di animali vengono utilizzati, per quali tipo di sperimentazioni. Mi dispiace, su questo non sono in grado di darvi molte informazioni. So che ovviamente le facoltà che sono più coinvolte in questo sono quelle mediche, e quindi che non è la mia facoltà, quindi ovviamente la mia conoscenza sui laboratori e gli stabulari all'interno della facoltà di medicina mi è assolutamente sconosciuta. Devo dire che all'interno della facoltà di scienze è un'attività che si è ridotta moltissimo, e quindi, diciamo, la mia facoltà, la facoltà di scienze, direi che rispetto, io oramai sono qui dagli anni 60, quindi pensate, sono 50 anni che sono insegno alla facoltà di scienze, devo dire che l'attività, mentre 50 anni fa l'attività sperimentale su animali c'era ed era anche abbastanza diciamo, frequentata, oggi è ridotta praticamente a niente. Quindi la facoltà di scienze si è mossa sicuramente in questa direzione che noi auspichiamo, e sulla facoltà di medicina non mi so dire. Io le volevo chiedere se ha mai frequentato, immagino di sì, stabulari e sale di esperimenti, se ha mai assistito e con quale frequenza a violazioni delle nostre, delle, chiamiamole così, leggi a favore della tutela degli animali detenuti negli stabulari, e soprattutto, e con che frequenza ha assistito, se ci sono state, a violazioni delle norme di sicurezza sanitaria, cioè come esattamente, come viene effettivamente praticata, nel senso che i ricercatori poi, quando difendono la loro attività, dipingono la sperimentazione animale come una sorta di paradiso dove gli animali non soffrono assolutamente, dove tutto viene fatto in anestesia, ma quando viene fatto in anestesia comunque gli animali non soffrono, insomma, come se gli animali non patissero nessuna condizione di sofferenza né psichica né fisica. Chiaramente una persona all'esterno immagina che tutto questo sia assolutamente falso, sia una difesa d'ufficio della sperimentazione animale. Lei che ha frequentato e ha visto queste cose può confermarlo, può smentirlo? Io mi è capitato poche volte, per la verità, di essere presente a questa sperimentazione per due motivi. Primo, perché, come dicevo, nella facoltà mia si è praticamente spenta. Secondo, perché sapendo che io sono contrario, certamente non mi invitano a partecipare a queste sperimentazioni. Però devo dire che nelle poche esperienze che ho avuto nella mia vita ho rilevato che intanto c'è una grande differenza fra ricercatori e ricercatori. Ci sono ricercatori che probabilmente vorrebbero non farla, e la fanno solo perché sono legati a un carro di ricerca che la prevede, e quindi questi ricercatori cercano, laddove è possibile, di fare quanto è nelle loro possibilità per ridurre le sofferenze dell'animale. Ci sono ricercatori che di fatto trattano l'animale come fosse una cosa, quindi questo fa parte un po' dell'etica di ciascuno di noi. E la seconda questione che devo dire è che le condizioni di sperimentazione animale, effettivamente una trentina, quarantina di anni fa, erano veramente a volte umilianti. Oggi, anche da questo punto di vista, qualche piccolo passo in avanti è stato fatto, ma ripeto, è molto affidato al singolo ricercatore ed è molto affidato a quanta è la partecipazione dei giovani, cioè della componente più giovane, ai progetti di ricerca, perché ovviamente le nuove generazioni sono molto sensibili a questo problema rispetto a quelle precedenti che erano svolto questa attività, e quindi questo in rinnovamento degli equip di ricerca gioca in favore di questa direzione. La situazione della sofferenza animale è molto variegata. Io ho visto animali effettivamente soffrire e mi sono anche ribellato a questo. Ho visto sperimentazioni. Ci può dire che tipo di animali, che specie di animali? Sostanzialmente la sperimentazione che ho visto io era su capi, quindi, ma so che si fanno sperimentazioni. Adesso è stata proibita la sperimentazione sui primati, però animali che sono sperimentati non sono soltanto le capie. Io la mia esperienza personale è su questo. Volevamo tornare un attimo su questa cosa che ha detto lei, nel senso che lei prima ha dipinto un ritratto in cui molto è affidato al, chiamiamolo, buon cuore dei ricercatori. Ci sono ricercatori che cercano di minimizzare le sofferenze, ci sono altri ricercatori che sono totalmente disinteressati. Ci interessava però capire un attimo qual è il sistema di controllo, nel senso che è chiaro che un sistema basato sul buon cuore individuale è chiaramente un sistema che permette i peggiori abusi. Esistono strumenti di sanzione, e al di là se esistono teoricamente, questi strumenti di sanzione nei confronti dei ricercatori sono stati mai veramente, oppure c'è un clima di omertà molto forte all'interno, dove anche, chiamiamolo così, ricercatore tra virgolette buono evita di segnalare, diciamo così, ricercatore cattivo, sempre questo tra virgolette, per rendere l'idea, insomma. Inizialmente, formalmente formalmente ci dovrebbero essere dei controlli quando si va alla sperimentazione animale, perché questa venga condotta in termini rigorosi, e tra le cose che il rigore prevede c'è anche quella del rispetto dell'animale. Devo dire che non se ne vedono molti questi controlli, questo è oggettivamente vero, e quindi è più che altro, bisogna per esempio, ognuno che fa delle attività di sperimentazione animale deve firmare una carta etica, nella quale dichiara che è obbligato a farlo, però che rispetterà, insomma, che quindi firma, quindi si assume una certa responsabilità rispetto all'impegno etico che dovrebbe, però poi se rispetto a questa dichiarazione non c'è un controllo, voi capite bene che resta una dichiarazione più di immagine che di sostanza. Questo è un po' quello che mi sembra avvenga, cioè la carta etica è stata già un passo in avanti, perché se non altro se si trovasse un ricercatore che ha firmato la carta etica e si comporta in modo difforme rispetto a quello che è dichiarato, è perseguibile a termini di legge, quindi è in fondo un impegno, però come voi capite, se non ci sono poi controlli che rendano questo impegno reale e non formale, il discorso che perde il valore. E l'ultima domanda su questo aspetto specifico: i controlli a chi sono affidati? All'ASL, ai servizi veterinari dell'ASL? Sì, credo di sì. Credo che l'unico organismo preposto ai controlli siano le ASL, che ovviamente non sono nella condizione di svolgere su questo tipo di attività un controllo molto, tenuto conto dei numerosi altri impegni a cui devono soddisfare, e tenuto conto del fatto che la ricerca, un po' per tradizione, viene considerata un mondo a parte, sbagliato. Io ritorno a chiederle qualcosa sull'università, pur consapevole del fatto che probabilmente non potrà darci grandi, insomma, informazioni, però quello che ci interessava era se lei sapeva se all'interno dell'università la sperimentazione animale viene fatta utilizzando animali che sono cresciuti negli stabulari, oppure l'università compra anche animali da delle ditte esterne, dalle grandi, insomma, multinazionali degli animali, della produzione di animali. Francamente non lo so, però immagino da alcune, così diciamo, informazioni che non vengono tutti cresciuti qua e che ci siano anche degli acquisti dall'esterno. Non sono sicurissimo, però vi dico su un'impressione che ho in base ad altre osservazioni che mi è capitato di fare. Sì. Io volevo sapere, anche qui è una domanda molto specifica, per cui sempre sulla vivisezione, sulla sperimentazione e vivisezione all'università, ogni quanto arrivano carichi di animali, questo lei non ce lo posso assolutamente dire. Guardate, io non ho mai fatto la sperimentazione animale, non la farò mai e non mi va di partecipare a gruppi che la fanno, quindi ovviamente le informazioni che ho sono di rimbalzo, tra virgolette, quindi su dettagli così specifici non sono in grado di darvi una risposta. Questo, cioè, le volevo chiedere solo una cosa, che lei prima ha parlato del fatto che i primati non vengono più utilizzati. C'è una legge che ha sancito la limitazione dell'uso dei primati nella sperimentazione animale, quindi esattamente i contenuti della legge non li conosco, però so che mentre, siccome lui aveva parlato dello spettro degli animali che vengono coinvolti, ecco, c'è una legge recente che riduce questo spettro per quello che riguarda i primati in funzione di quello che viene, si vuole sperimentare. Ecco, lo davo solo come informazione alla sua domanda. E secondo lei quanto la sperimentazione animale sia, prima abbiamo parlato insomma dei termini economici, diciamo, no? E quanto la sperimentazione animale viene poi utilizzata anche, diciamo, in favore di ditte, diciamo, del farmaco, piuttosto che industrie belliche, piuttosto che, diciamo, per una ricerca a livello batteriologico, cioè qual è la compromissione? Questa è una buona domanda, perché ecco, io per esempio quando parlo di sperimentazione animale non si parla mai del fine della sperimentazione animale. Invece la sperimentazione animale ha vari fini, ecco, lei ne ha citati tre principali: farmaceutica, cosmetica, bellica, cioè armi chimiche. Adesso sono tre cose, come capite bene, molto diverse, perché se devo immaginare di poter sopportare che per esigenze particolari la sperimentazione animale debba persistere per la salute di bambini, di vecchi, di persone deboli, lo posso pure accettare, ma accettare la stessa cosa per dei belletti cosmetici o per fare delle armi chimiche, no. Quindi ecco che questa domanda mi consente di dire che questa disponibilità a considerarla ancora come una riserva da poter utilizzare in casi estremi, ma è condizionata all'impiego per la sperimentazione di nuovi farmaci che proteggano da malattie che oggi sono per l'organismo umano un pericolo, un danno anche sostanziale, che colpiscono bambini, vecchi, eccetera. Ma se invece questa sperimentazione animale è finalizzata alla cosmetica o alle armi chimiche, tanto per citare i due esempi, o addirittura all'integrazione alimentare, perché ora c'è pure questa mania dell'integrazione alimentare, assolutamente non sono d'accordo. Allora proprio lì sono del parere che debba essere immediatamente sostituita, per quell'altro che lo debba essere progressivamente man mano che la ricerca ci consente di fare dei passi in avanti. Ma pensa che appunto tutte questi elementi, queste varie grandi economie che girano attorno alla sperimentazione siano molto radicate al giorno d'oggi? Beh, penso che siano, certo che ci siano degli interessi notevoli, perché sono settori, quelli che vi ho detto, ai quali girano un sacco di soldi. Oggi la cosmetica è impressionante, pure gli uomini sembra che siano diventati dei consumatori di prodotti cosmetici in termini di un mercato importante, quindi è ovvio che dietro questo ci sono degli interessi. I farmaci è ovvio che sia, ma vi ripeto, il farmaco ha un po' delle caratteristiche particolari. Gli integratori alimentari oramai non si sa più che sentire e leggere, ce ne escono. L'industria bellica? L'industria bellica sicuramente anche, purtroppo sì, con anche denunce che sono state fatte, ma che tuttavia non hanno completamente completamente consentito di ridurre l'impiego di armi belliche, di armi chimiche nelle guerre, e ancora oggi ci sono dei casi denunciati, quindi anche quella sicuramente ha i suoi. Quindi è ovvio che ci siano degli interessi economici, ripeto, giustificabili in parte, e ci tengo molto a dire quelli in parte, e in casi estremi solo quando si tratta di proteggere l'organismo umano, assolutamente ingiustificabili quando si tratta di utilizzarli in guerre chimiche o peggio ancora per creare delle cipri o dei rossetti che hanno un colore particolare o che abbiano un effetto estetico migliore. Ci saprebbe fare delle percentuali, nel senso da qualche parte leggevo, ma non me lo ricordo dove, che soltanto il 30% della ricerca con gli animali è fatta a fini medici, farmacologici, il restante 70% è fatta a fini bellici, cosmetici, di prodotti industriali, di largo consumo e via dicendo. Mi risulta un po' di più, però potrei sbagliare io, cioè mi risulta quasi la metà, per i dati che ho letto io, però vi ripeto, dati che ho letto, non è che li posso dire sulla base di una mia esperienza. Per i dati che ho letto mi risulta che la metà della sperimentazione animale è finalizzata a fini medico-farmaceutici e metà invece per attività che non hanno niente a che vedere con la protezione della salute dell'uomo. Quindi possiamo comunque ragionevolmente dire che una percentuale che può oscillare tra il 50 e il 70% della sperimentazione animale non è neanche finalizzata, almeno in teoria, a migliorare le condizioni di vita dell'uomo, quindi perde anche questa patina, diciamo, di nobiltà, ma in molti casi a peggiorarla addirittura. Sì, esatto. È finalizzata a migliorare dei prodotti di mercato soltanto con un fine economico, assolutamente. O addirittura peggiorare addirittura le condizioni di vita degli esseri umani tramite l'uso di armi. Certo, o peggiorarla se parliamo di armi chimiche, certo, giustamente. Ok, per noi va benissimo così, la ringraziamo della disponibilità e niente, auguriamo buon lavoro. Sapere poi come è andata la trasmissione.